Convocati di Carlo Genta. Funziona sto telefono? Credo di sì, io non l'ho mai operato, ma credo di sì. E io dovrei fare una telefonata alla mia fidanzata a Napoli, è molto tempo che non riceve mie notizie. Come? Grazie, prego. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Credo che dal regolamento non si possa fare la telefonata con il suo assistente panchina. Le volevo dare questa notizia, dottor. Perché la radio non funzionava, allora mi sembra che è differente della Francia. È rimasto il dubbio che Garcia ieri sera stesse ordinando una pizza. Prima giornata a emporter, come dicono i francesi. Come avrà fatto anche Davide da Varese, che mi mandò subito un SMS. Ieri, ultimo giorno di ferie, io e mia moglie volevamo portare i due figli, 6-10 anni, a San Siro. Abbiamo rinunciato di fronte ad una spesa di 47 euro a testa per gli adulti, ben 33 i ridotti, secondo Anello Arancio. Poi vedi la partita in TV e vedi lo stadio vuoto. E magari, come Garcia, ordini una pizza in panchina. Ti chiamerei. Ma meno male, Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ma meno male che c'è stato il buon, caro e vecchio Milan a mettere pepe sulla pizza nel capodanno degli italiani. Avesse vinto 1-0 a Verona, metti poi gol di Balotelli, la prima di campionato sarebbe stata una gigantesco spot televisivo. Le grandi che vincono e convincono, tanti magnifici gol, onestamente, tutti grandi firme, dalla Juventus di Tevez al Napoli stellare, alla Roma dei Romani, Totti che ispira, De Rossi e Florenzi che segnano, perfino l'Inter di Mazzarri, cui non si sa bene cosa chiedere. Per fortuna c'è il Milan, c'è Luca Toni e c'è già un bel casino. 800240024 per rispondere alla convocazione come ogni giorno. Oggi faccio quello che voglio e parlo con una delle mie penne preferite, Maurizio Crosetti da Repubblica. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno, grazie. Mi sembrava ci fosse una regia del Grande Fratello ieri, eh? Vincono tutte, segnano tutti i più forti, gol bellissimi, non avesse perso il Milan avrei avuto qualche sospetto. Sì, è Capricorn One, praticamente hanno simulato la prima Bravo. Di campionato in studio, e in studio del resto è quella è la location, come dicono oggi quelli che parlano orrendamente, è la location tipica, quindi in realtà sembrano cose avvenute allo stadio, in realtà erano tutti cartonati. Bravo. C'era una regia, era tutto fatto alla PlayStation, solo che il Milan no, l'unica squadra vera era il Milan. L'unica cosa vera di questa prima domenica, esatto, era il Milan. D'altra parte sappiamo, esatto, che con il gioco del Campionatus Interruptus, no? Giochi una giornata massimo due e poi ti fermi un'altra volta, lasci finire il mercato, eccetera, eccetera, per qualche partita della nazionale, funziona così. Sono per le televisioni, diciamo la verità. Sì, poi se non lo sa il Milan questo, accidenti, l'hanno inventato. Bravo. Loro, no? Bravo. Vabbè, comunque, in realtà le pizze le ha prese, quelle che Garcia ha ordinato. Le ha prese il Milan in faccia. Però vabbè, insomma, dai, diciamo che è meglio prendere le pizze così a inizio pranzo che non quando è troppo tardi, anche se in realtà è bravo, però un po' tardino, se mangia la pizza anche bravo Maurizio, però se mangia la pizza anche mercoledì sera e poi la mangia anche col Cagliari, mi sa che il conto lo paga Allegri. Sì, il quale non solo rischia di non mangiare il panettone ma nemmeno le castagne se continua a prenderle, però insomma adesso basta, usciamo dalla metafora e chiediamo. Perché se io mi sto divertendo, Milan... poi aspetto gli insulti, ma intanto mi sto divertendo. No, vabbè, ma poi non si può toccare il calcio, sappiamo che è così, allora certo. Su Twitter, nelle mail cominciano a dirti no, tu juventino infame, e sei contro la Juve, no, tu interista. Possiamo dirlo urbi e torbi che a noi non importa nulla di qualcuno in particolare, noi vogliamo divertirci, a noi importa l'idea del gioco e poi un pochino anche scherzare, un pochino anche sdrammatizzare. Peccato che loro signori poi non ci credano, ma fa niente. Vabbè, pazienza. Pazienza. Intanto Maurizio, la Juventus ha paura del Napoli? Secondo me non ha paura di nessuno. No, ma poi Juventus con Tevez, adesso Tevez ha segnato un gol, il classico gol che facevi anche tu, io no, ma tu lo facevi. Sì, però adesso anche Tevez sono, era Gix. Sono alto più o meno come lui, ma ho la faccia molto più cattiva, quindi... da bambino anch'io giocavo con l'acqua calda, no? Scherzi a parte, Tevez non tanto per quel gol, ma per quello che ha fatto prima, dopo, per come si muove più di quanto ti rimporti in realtà, anche se poi nella sua carriera ha segnato un sacco di gol, è un giocatore completo, tonico, molto intelligente, molto esperto, ha già capito molto, quasi tutto dei movimenti della Juve. Non è una prima punta, però la Juve è quella cosa che manda in gol chiunque, davvero, se ci mettiamo io e te con Conte e riusciamo a non andare in manicomio dopo una settimana, va ancora a finire che diventiamo calciatori. Sì, a non andare in manicomio, in prigione, poi dipende dalle reazioni, no? 800 24 00 24. Senti, però, Milan, PSV e Cagliari, dicevamo prima scherzando, ma neanche poi tanto, per Allegri se non è la pizza già il ciglio del burrone, se lo supera arriva Galliani e si porta sotto il braccio da una parte Onda e magari dall'altra Astori, per una squadra che sarebbe comunque anche con Onda e Astori, perché bisogna dirlo, da zero titoli. Sì, poi la cosa curiosa è anche un po' bizzarra, è che il Milan ha un bisogno tremendo di questa Champions, dei 30 famosi milioni per rinforzarsi, ma se non si rinforza e non si è rinforzato rischia di non averla la Champions. Quindi tra l'uovo e la gallina non so chi sia nato prima, il gallo forse, il galletto olandese, no, non credo che i ragazzotti del PSV, per citare Allegri, sì, possano eliminare il Milan dopo il pareggio dell'andata in Olanda. È chiaro che però quando vivi giornate pomeriggi come quello di Verona, le scorie nella testa rimangono, e specialmente in giocatori giovani, no? Quindi davvero mercoledì si capiranno parecchie cose del Milan. Sì, intanto c'è chi da Verona cita il Marchese del Grillo: eravate tutti pronti di SMS a crocifiggere Verona e i suoi tifosi, ma noi siamo noi e voi non siete un cazzo, come on Camonellas, come on Curva Sud. Ma sì, questo è il linguaggio classico, diciamo, di alcuni. Giusto, bello averla buttata in ironia, ho apprezzato questo, anche se poi anche quella in fondo era una presa in giro. In realtà purtroppo Verona ha avuto in passato brutti episodi che portavano a temere una recidiva, dopodiché anche sbagliato pensare che per forza le cose brutte debbano accadere solo perché sono già accadute, solo perché mediaticamente ci marciamo un po', solo perché c'è una sfiducia globale in chi va alla partita. La maggioranza di quelli che vanno, spendendo un sacco di soldi, come avete ricordato all'inizio, quelli che non possono neanche permetterselo più, beh, è una maggioranza di gente normalissima, civile, appassionata, quindi è sbagliato pensare anche alle curve, come luoghi di perdizione, sì, o di gente, o di brutta gente. Alcuni sono brutti, però io non accetto, hanno il potere. Però, Maurizio, non accetto la normalizzazione, cioè dicono ma sì, è normale, ce ne sono 100 che fanno ma cosa volete che sia? Questo mai, perché quel discorso lì ha portato a trasformare lo stadio in una zona franca, alcune zone dello stadio in una zona franca senza legge, dove sono padroni arroganti, violenti, e quindi no, assolutamente. Non bisogna normalizzare nulla, ma nemmeno generalizzare. Senti, per chiudere, Maurizio, vorremmo essere anche un po' Benitez, che ieri godeva come un riccio, uscito dalla finestra, lanciato dalla finestra dall'Inter, è rientrato dal portone del Napoli, un Napoli adesso ricco, adesso bello, adesso opulento, magari lo sarà ancora di più perché Benitez ha chiesto un altro attaccante per non saper più cosa chiedere, ne ha 12, ne vuole 13, però un bel Napoli, onestamente. Sì, è stata l'immagine della domenica, ha riempito gli occhi, è una squadra che sembrava quasi giocare in un campionato estero, tanto era la velocità, la consapevolezza, anche la bellezza, la facilità con cui ha espresso questa bellezza, non è sempre così automatico, poi era anche molta l'attesa, quindi poteva un po' così bloccare, frenare un gioco che è nuovo, molti giocatori sono nuovi, l'allenatore è nuovo, le ambizioni sono invece vecchie perché da 2 anni almeno al Napoli è protagonista, non era facilissimo. Adesso vabbè, questa è un po' una banalità, ma chiudiamo come una banalità, bisogna frenare gli entusiasmi perché quella è una piazza dove eccetera eccetera eccetera. Quindi un po' di acqua sul fuoco, anche se poi alla fine è anche bello il fuoco. Sì, è bellissimo, bellissimo il fuoco, ma erano tutti cartonati, l'abbiamo detto all'inizio. C'era la regia occulta, erano cartoni televisivi. Napoli, l'unico cartone che usano è quello per metterci dentro la pizza, ma non quella di Garcia. Grande Mau, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero. Maurizio Crosetti da Repubblica. Abbiamo aperto così il campionato. Capodanno degli italiani che amano il pallone ieri. Ripeto, per fortuna c'è stato il Milan a mettere il pepe sopra quella pizza, se no sembrava davvero così bello, così scritto, così normale, perché il Napoli che stupisce vince, la Juventus che vince alla sua maniera e mette subito in vetrina Tevez, vince perfino l'Inter, un Inter alla quale non sai bene cosa chiedere, perché insomma è stata la grande incognita, una delle grandi incognite cui con la quale ci siamo avvicinati a questa prima giornata di campionato. Ma cosa chiediamo all'Inter? Ha la maglietta nerazzurra, però sotto la maglietta cosa c'è? Ieri abbiamo visto una squadra con equilibrio, magari non una squadra con delle stelle, magari non una squadra con le ambizioni che aveva nel passato, ma è un Inter che probabilmente sta aspettando Toir, come dice Moratti. Di discorsi con l'altra parte, se raggiungeremo un accordo, va bene, per il momento non è stato ancora raggiunto, e quindi se no rimane tutto come prima, per la delusione generale rimane tutto come prima. Come prima? Quando? Prima quando? Prima quando c'erano ambizioni di scudetto, prima quando c'era Ronaldo, prima quando c'era Mourinho, prima quando c'era Eto'o, prima quando c'erano i grandi campioni, prima quando? Questo è l'interrogativo che deve rispondere Moratti. Cioè, o arriva Toir o rimane tutto come prima, ma prima come? 800240024, numero verde, oggi tocca a voi, è il vostro giorno, è il nostro capodanno. Lucio Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo evidenziare la mia delusione sul Milan. 4 anni che sono deluso, di la verità, da quando c'è Allegri. Beh, sono al primo con lo scudetto, magari no. Neanche quello, perché l'ha vinto per la rotta della cuffia e stava anche quasi per perderlo. Il ma l'ha vinto. La squadra più forte del mondo, d'Italia in quel momento lì. Il secondo anno che lo stava vincendo con la stessa squadra forte lo ha perso. Non ha capito che quell'accidente di Abate non è capace, e anche lei lo pensa in modo diverso da me perché l'ho sentita, non è capace di crossare, c'entra tutti quanti i terzini, non ne fa una, e quando imbrocca la testa di qualcuno, porca miseria, la fa per sbaglio. In un cross di Robinho, se non mi ricordo male, domenica scorsa, che ha passato tutta l'area, se ci fossero state le scorte, le riserve, quelli messi in vendita dalla Juventus, si sarebbero catapultati tutti in area. Sì. Porco mondo, non so più cosa dire. Meglio che ci fermiamo qui, Lucio. Mi ascolti una cosa, dica. È possibile che tra difesa e centrocampo non ci sia collegamento? Io ho visto i difensori venire avanti e poi tornare indietro e passarsela tra di loro, perché i centrocampisti, invece di smarcarsi, porco cane, dico ancora, ecco, andavano avanti, quindi venivano chiusi dagli avversari perché pressavano. Ma questo Benedetto di gioco, il signor De Negri, possibile che in 4 anni, cosa ha fatto nel Milan in 4 anni? Non ha dato uno stampo di nulla. Lucio, la prego, fermiamoci qui a porco mondo, porco cane. Ma no, è stato molto, molto esplicito, cioè, insomma, nella sua telefonata si poteva respirare la delusione dei tifosi del Milan. Non sono del tutto d'accordo con lei, nel senso, Abate, vabbè, a me è un giocatore che piace, secondo me è un giocatore che è in grado di, partendo da dietro, di crossare la palla in corsa come fanno in pochi. Non vogliamo dire che non è il miglior Maicon, vogliamo dire che non è il miglior Cafu, vabbè, su questo siamo d'accordo, però non credo sia Abate il problema del Milan. Non credo nemmeno sia Allegri, in tutta onestà, perché al primo tentativo ha fatto centro, poi facendo fatica, col fiatone, non col fiatone, ha vinto lo scudetto, e questo è ciò che conta. Secondo anno è stato il peggiore di Allegri, secondo me, da quando è al Milan, e poi Allegri fa quello che può con una squadra che non ha tantissima qualità. Questo dobbiamo ammetterlo, Lucio, perché fanno un po' in parallelo il discorso che abbiamo fatto sull'Inter, c'è la maglietta, ci sono tutti quei trofei, quell'infinità di coppe disegnate sulla fiancata dell'autobus nero, del pullman nero che trasporta il Milan, che fanno impressione, però al di là, sotto questo vestito non c'è moltissimo, perché c'è una squadra che vale forse il quarto posto, quinto posto, non lo so, c'è una squadra che ha una difesa fragile, c'è una squadra che ha una fase difensiva fragile, c'è una squadra che chiede a Balotelli di essere guidata. Non so se Balotelli sia ancora pronto per questo ruolo, che è molto, molto grande, molto pesante, che non è abituato a ricoprire. Balotelli e Montolivo sono i giocatori ai quali il Milan chiede di fare la differenza. Montolivo non è evidentemente in condizione, perché io giù come nelle ultime due partite in Olanda e a Verona l'ho visto raramente. Mettiamo che sia indietro di condizione, insomma non ha moltissimo altro il Milan, non potrà aggiungere moltissimo nemmeno l'arrivo di Honda probabile, o il presunto arrivo di altri giocatori come Astori o non so chi altri. Il Milan, anche con, mettiamo Honda, mettiamo Astori, non sarebbe una squadra competitiva per lo scudetto. Rimarrebbe, come ho detto prima, secondo me in questo momento una squadra da zero titoli. Abate o non abate, Allegri o non Allegri. 800 24 00 24, ce n'è una su Higuain di oggi. Piccolo incidente per il Pipita, scivola su uno scoglio a Capri ed è costretto ad andare in ospedale per un taglio al volto. Non sto scherzando, questo è reale. 800 24 00 24, strade. Luis Enrique, Zeman, non vi viene mai la voglia di un allenatore normale? Tutti convocati. Tutti convocati, eh? 800 24 00 24 per parlare di sport, di quello che volete. Poi parliamo anche di motori, perché ieri è stata una domenica importante. Anche qui grandi firme, come nel calcio. Marquez, nuovo grande autografo del moto mondiale, e Alonso che insomma, si è difeso con i fatti da un'estate di... così, no? di bisticci verbali. Alonso guida una Ferrari non competitiva e ieri ha fatto il demonio per portarla al secondo posto. Ma restiamo sul calcio. 800 24 00 24. Ulisse scrive: ma Palacio è più debole di Tevez, Guarini inferiore a Vidal, Ranocchia inferiore a Bonucci? Io rispondo sì a tutte e tre le domande, caro Ulisse. L'Inter inferiore alla Juve mi sembra una banalità. 800 24 00 24, numero verde. Allora, tra gli altri argomenti, caro Marco D'Alessandria e caro Antonio da Verona, che siete già in linea, ci sono anche le due romane, con la Lazio che ieri sera ha giocato un primo tempo impressionante contro l'Udinese. Petkovic, a proposito di telefoni romani, l'ho visto in immagini di una partita estiva in tribuna addirittura parlare con due cellulari quest'estate. Petkovic senza cellulari, con i cellulari in tasca, ha cambiato la faccia della Lazio, che appunto ieri ha giocato contro l'Udinese un primo tempo da paura, secondo me. Poi c'è la Roma che, come ho detto prima, vince alla prima di campionato, come non succedeva da molti anni, in trasferta, nel segno dei romani. Totti che ispira, De Rossi che segna un meraviglioso primo gol a sbloccare il risultato, e Florenzi, altro romano, che raddoppia. De Rossi dopo il Livorno, e poi parliamo con gli ascoltatori. A me dentro di Goria mi vogliono bene tutti, non ce n'è uno che non mi vuole bene. Io, per me è una famiglia, veramente è la mia seconda casa, e quindi quando uno vive un periodo non positivo, come ho vissuto io insieme ai miei compagni, la gioia di una piccola rivincita, anche se ancora è presto, la condividiamo tutti insieme. Vabbè, ma tanto abbiamo detto prima con Maurizio Corsetti che era tutto finto, no? Tutto cartonato, troppo bello per... troppo perfetto, non troppo bello, perché qui dipende dai gusti, ma troppo perfetto per essere vero. Vincono tutte le grandi, impressionano e segnano tutte le star del nostro campionato, quasi manco ci fosse una regia occulta. Marco, Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, piacere parlare con lei. Piacere mio. Piacere mio. Io volevo continuare il discorso sul Milan. Sì. Praticamente l'ascoltatore di prima mi ha preceduto. Io volevo solamente dire che vedo una squadra che non corre. Che rispetto agli avversari, ad esempio di Verona, sembrava non so, il Real Madrid del partito. No, ma guardi Marco, a Verona secondo me Milan non pervenuto, cioè proprio non ha giocato. Non pervenuto, no, zero, proprio sotto zero. E io vedevo gli avversari che quando ripartivano in contropiede ripartivano in quattro. Noi non eravamo capaci di ripartire con due o un uomo addirittura. In tutti i cross in area erano un pericolo. Toni sembrava addirittura un centravanti di 20 anni, appena esordiente, l'esordiente Toni. Io mi domando se questa squadra, dal punto di vista atletico, oltre che tattico, sì, debba rivedere, guardi, qualcosa, io, perché è un disastro. Io guarda, provo a fare l'avvocato difensore, Marco, provo a fare l'avvocato difensore e a trovare una spiegazione. Allora, siamo nemmeno a settembre, siamo alla fine di agosto. Il Milan ha un obiettivo determinante, che è collocato mercoledì contro il PSV Eindhoven. È un obiettivo agonistico, è un obiettivo calcistico, cioè l'ingresso nella fase girone della Champions League, ma è anche un importantissimo per il club obiettivo economico, perché quella partita vale 30 milioni di euro. Dunque, volendo provare a cercare una spiegazione, la spiegazione possiamo averla della partita di Verona, potremmo averla mercoledì notte. Può essere che il Milan in questo momento non sia fisicamente pronto a giocare al 100% delle sue potenzialità attuali, capacità attuali, una partita ogni tre giorni. Dunque, se il Milan ha fissato, Allegri ha fissato alcune bandierine, un paio di bandierine in questo inizio di stagione, non possono che essere quelle del doppio confronto con il PSV. Dunque, può essere che il Milan, dopo aver giocato una gara estremamente dura martedì ad Eindhoven, non avesse le energie per replicare, almeno dal punto di vista fisico, perché non possiamo dire che fisicamente il Milan non ci abbia dato ad Eindhoven, può essere che non ne avesse per replicare quella partita a Verona. Non so, sto provando ad arrampicarmi sui vetri a cercare una spiegazione che magari non esiste, però è indubbio come l'obiettivo di questo inizio di stagione, obiettivo da centrare a tutti i costi, vivere o morire, sportivamente parlando ed economicamente parlando, sia quello dell'ingresso nella fase girone della Champions League e dei conseguenti 30 milioni di euro. Antonio, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, io ho visto un Milan che fa cagare, sinceramente speravo di vedere una gran bella partita. Per andare giù perché, piano, la perché tocco Luca piano. Luca Toni, io non tifo né Verona né Milan, ok, sono stato neutrale, ho portato mio figlio di 9 anni allo stadio e mio nipote di 14, sì. Ma avendo la curva est, voi non parlate mai di queste cose, ve lo dico io. Io ho visto un padre e una bambina di circa 5 o 6 anni, non di più, ok, andarsene via veronesi, l'hanno fatti scappare perché ti favano Milan, Questa è una vergogna, non parlate mai di queste cose. Questo è lo stadio che mi fa schifo, è per quello che io allo stadio non vado mai. Piacere averle parlato con lei, e mio figlio l'ho portato giusto da accontentarlo, dico la verità. Però sì, metti che simpatizzavo, lei abita a Verona, okay, sì. Sono lì. Però non tifo perché so com'è la violenza allo stadio, questo tipo di violenza non mi piace per niente. No, quindi mio figlio l'ho portato adesso, forse ne vedrà un'altra, ma col Chievo, perché il Chievo è molto più tranquillo rispetto all'Ellas. Chievo tranquillo rispetto all'Ellas, anche meno vedere, anche meno seguito. Milan, che Chievo-Milan gliela faccio vedere, ma è tutta un'altra storia, capito? Sì. Sì, ecco, magari sarà un altro Milan e magari possiamo anche andare giù, cioè provare a dipingerla con... Se era un altro Milan si vedeva una bella partita, sì. Però c'è da dire anche che il Milan sicuramente aveva il peso delle partite di qualche giorno prima, dai. Beh, quello, ma non lo so, è anche, può essere anche la mia spiegazione, ci ho provato prima, insomma. Io parlo da sportivo, non da tifoso. Sì, io no, questo l'avevo capito. Io sto facendo ancora, quindi i miei sport sono diversi, dai. Sì, ha capito. Quindi l'avevo capito. L'avevo capito Antonio, poi il suo debutto è stato così, scioccante, però tant'è, i bambini e lo stadio, altro argomento che insomma su cui potrei anche fare una puntata, perché questa storia dei, è ora che l'ho detto l'altro giorno, non è inedito, è ora che allo stadio tornino le famiglie, io dico, ma quando mai ci sono state? Perché io ho cominciato a frequentare gli stadi alla metà degli anni 70 per ragioni anagrafiche, e devo dire la verità, in quegli anni andare allo stadio era molto più pericoloso di adesso per l'incolumità fisica. Poi se vogliamo raccontarci altre cose, raccontiamocele, però per ragioni sociali, per ragioni politiche, per quello che volete, io da ragazzino non facevo politica, non avevo problemi con nessuno, ma andare allo stadio in quegli anni era molto più pericoloso di quanto non sia ora. Ora è molto più difficile, molto più costoso, però se vogliamo metterla sul pericolo dell'incolumità fisica, allora era peggio. 70-80, Fabrizio, Reggio Emilia, buongiorno. Salve Carlo, complimenti. Grazie. Però volevo dire, andare anche allo stadio bisogna, il primo è il costo. Una famiglia normale, quattro persone, ci vogliono 200 euro di biglietti, andare in distinti arancio, devi prendere l'autostrada, ci sono 10 euro per il percorso che devo fare io, ci metti la benzina, cioè io ci faccio quasi un anno di Sky. Quindi. No, è vero Fabrizio. Ma quello però è un'altra cosa, poi dato che questo... tengo l'Inter, come mai lei dice che a Mazzari bisogna chiedere niente? Io dico che bisogna chiedere, e infatti parlando proprio della partita di ieri, se c'era in pratica Stramaccioni, a partita di ieri forse la perdevamo, Ieri abbiamo subito un tiro in porta al Genova e l'Inter ha fatto un cambio grosso tra il primo e il secondo tempo, ma grossissimo, è stato merito di Mazzarri. Sì, ma io non... quello che dico io è che a Mazzarri non si può chiedere lo scudetto. Ma si può chiedere lo scudetto, l'Inter arriverà piuttosto che non come l'anno scorso, arriverà quarta. Sì, ma quello che dico io non si può chiedere lo scudetto, nel senso che all'Inter non si possono chiedere i trofei che venivano a ragione richiesti negli anni passati, quando la rosa era diversa e quando gli investimenti erano diversi. E sì, poi vogliono passare anche di Stankovic, uno che ieri se n'è andato ed è un grande. È stato un grande giocatore. Deki Stankovic è un giocatore che io ho sempre ammirato molto, come carisma, come leadership, come capacità di stare in campo, come capacità anche di essere in alcuni casi portavoce della squadra. A me Stankovic è un giocatore che è sempre piaciuto, come garra, come grinta, come atteggiamento. Fabrizio Reggio Emilia, poi per quanto riguarda lo stadio, sì, certamente c'è il costo, certamente ci sono le difficoltà, perché oggi dovessi comprare un biglietto non saprei da che parte cominciare, se in banca, se chiedere la tessera del tifoso, se da chi andare a comprare questo biglietto, quale nome mettere, e perché devo farmi schedare o devo far schedare i miei figli, che non ne ho voglia. Vabbè, discorso lungo, che però facciamo, quando volete. Dino Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo dire, allora, d'accordissimo con tutti i tifosi che hanno chiamato precedentemente. Io da milanista dico, volevo fare un appunto anche alla società. Avendo un paio di anni fa Aquilani in rosa, ma perché abbiamo dato via Aquilani? Ce l'avevamo già in casa. Primo, come secondo appunto, perché posso rispondere a questa, perché bisognava riscattarlo dal Liverpool e costava molti soldi. Certo, ho capito. Quindi la Fiorentina è più, diciamo, ha più... La Fiorentina ha deciso di investire su Aquilani e l'ha riscattato per meno soldi di quanti non sarebbero stati chiesti al Milan. Però, insomma, ragioni di mercato. Però non mi sembra che Aquilani, che a me piace molto, anche se mi aspettavo di più da lui, visto l'inizio della carriera, il talento che ha, anche la personalità che aveva da ragazzino, mi sarei aspettato una carriera diversa da Aquilani. Finora al capitolo di talenti mai sbocciati completamente, però non credo che Aquilani avrebbe cambiato il Milan. No, beh, chiaramente cambiato no, però secondo me è un contributo importante su questo Milan, lui l'avrebbe senz'altro fatto. E poi la seconda cosa, voglio dire, avevamo Flamini, dove è andato a finire Flamini? Probabilmente in un'altra squadra. Una persona che in campo dava il 110 di quello che poteva dare, visto il Verona di sabato, che francamente non si muoveva nessuno, nessuno correva, una squadra senza anima. Sì, ma Flamini non gliel'avrebbe data, è un giocatore che probabilmente cambierà aria, non penso che con Flamini in campo sarebbe cambiato qualcosa, certamente. Flamini è un giocatore che costa per il Milan dal punto di vista dell'ingaggio un occhio della testa, non so se lo valga. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto, soprattutto aspetto Alessandro dalla provincia di Venezia, dopo la borsa. Tutti convocati. Allora, caro Alessandro dalla provincia di Venezia, 800 24 00 24, il vostro numero verde per rispondere ogni giorno alla convocazione. Caro Alessandro e cari miei, Higuain è il giorno di vacanza, dunque Higuain era in barca a Capri con due signorine, ha messo il piede su uno scoglio viscido, è andato giù di faccia, ha picchiato violentemente, 8 punti di sutura al mento, 2 alla fronte, applicati in ospedale, mentre le ancelle sono in deferente attesa, così dicono le cronache, non lo dico io. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Sono qui a Jesolo, la prima convocazione, sono qua in barca anch'io a Jesolo. Attento voi. Attento agli scogli che scivolano, con chi è lei? Anche lei con due signorine? No, io sono solo, faccio un po' di vacanza, la mia figlia è tornata a casa, quindi... Da solo un po' di vacanza? Si può... L'ascolto ogni pomeriggio. Se può dire, se no venivo anch'io, se era con due signorine mi convocavo in barca. Comunque avevo due argomenti. Uno a Verona. Ah, se mi rispondo. Ho sentito in settimana un ascoltatore che aveva pronosticato il 2-0 con doppietta di Toni e gli faccio i complimenti. Questo è andato vicino. Ah, da me? Non me lo ricordo. Si ricorda? Sì, no. Mi scuso, chiedo venia, ma non ricordo questo pronostico. Un 2-0 doppietta di Toni. L'altro argomento era su Balotelli, che secondo me è un grandissimo e dovrebbe essere la grande punta della nostra nazionale, però deve diventare più maturo, deve dimostrare sul campo quello che vale. Non deve usare Twitter, non deve usare il femminismo, deve solo dimostrare sul campo, poi può parlare. Sì, poi se, secondo me lui è un grande... Se evita di dare in escandescenze, perché Alessandro, l'altro giorno a Verona, se gli sbattevano in faccia un cartellino rosso non si poteva dire nulla, no? Nell'anno della tolleranza zero, l'abbiamo visto a Calvarese, ha detto grosso modo di tutto, se l'è cavata con il solito giallo, e quando Balotelli eviterà di prendere questi cartellini gialli forse farà un passo avanti verso la definitiva maturazione. Ma se lui vuole diventare il numero uno in Italia e uno dei primi al mondo, deve comunque limitare i suoi atteggiamenti, deve essere, diciamo, più umile, secondo me, e diventerà il numero uno anche in Italia. Certi atteggiamenti, certe frasi su Twitter, innescare il discorso di Brescia contro Verona, insomma, che non fa bene. Ma per sì. Lui soprattutto. Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. E qualcuno l'ha paragonato a Metierò, piano, Metierò è un'altra cosa nel tennis. Vabbè, ma questo invece la ricordo, il parallelo che si è fatto l'altro giorno. Insomma, è evidente che non possiamo paragonare Balotelli a McEnroe, perché sarebbe assurdo. Semplicemente si parlava di atteggiamenti e si diceva che Balotelli, forse come John McEnroe, ha bisogno di avere un avversario da sfidare verbalmente, da sfidare fisicamente, come accade con i difensori. Certo, questo succede anche per Ibrahimovic, ma bisogna essere... porsi dei limiti in questo. Poi lei dice Balotelli più umile magari in certi comportamenti, è sicuro però che si trova di fronte ad una missione, ad un compito che non richiede umiltà ma personalità, cioè quello di caricarsi il Milan sulle spalle, di essere il capo giocatore di questa squadra come mai gli è accaduto in carriera. Questa è una sfida importante. Hai detto c'è Damiano, Roberto Scaltritti. Allora Damiano da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo parlare un attimo della Formula 1, se si può. Certo che si può, volentieri. Ma dei tattici della Ferrari ne vogliamo parlare? È possibile che Alonso ogni volta debba fare i salti mortali per recuperare dalla nona piazza? Sì, dei tattici. Non... Dei tattici, perché sono gli unici due della Ferrari che il Q3 l'hanno toppato in pieno. Sì, ma la Ferrari più che dei tattici avrebbe bisogno di... Insomma, avrebbe bisogno di un'altra macchina, Damiano, perché... Alonso deve fare i salti mortali, sì, ma perché? Perché la Ferrari è una macchina inferiore a quella dei suoi sogni, no? A quella che ha chiesto per il compleanno, a quella che guida Vettel. Sì, ma nell'ultimo giro, gli unici due che non sono passati sotto la bandiera a scacchi erano Alonso e Massa, e sono arrivati 9 e 10, ultimi. Lì magari bastavano 5 secondi prima e se non altro se la sarebbero giocati. Non dico a partire primi, ma almeno terzi, quarti. Sì. Non credo che la Ferrari in quel momento sarebbe valsa meno. Ma insomma, no, io penso che partecipato. Io penso che la Ferrari sia inferiore alla Red Bull in maniera chiara ed evidente, e questa è una banalità. Sia inferiore alla Mercedes attuale, sia inferiore alla Lotus, magari non quella di ieri, che pure ha un sacco di problemi economici e non solo, sia una macchina che vale il piazzamento di Massa, mettiamola così. L'ho detto anche l'altro giorno a Leo Turrini, con il rischio di dire una cattiveria: la Ferrari vale, lo specchio della Ferrari è il piazzamento di Massa in classifica piloti e in ogni Gran Premio. Quello che c'è in più lo mette Alonso, secondo me. Allora, ieri c'è stato solo l'imbarazzo della scelta quanto a gol belli, no? Gol grandi firme, abbiamo scelto questo. And the Oscar goes to Zuniga. Amsic può colpire. Amsic mi trovo bene nella città, però il più importante è quello che conta è campo, però qua mi sono sempre trovato bene e mi trovo bene con i tifosi. per questo non c'ho voglia di cambiare, mi trovo veramente benissimo a tutti gli aspetti. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. E anche più di uno di doni. Marek Hamšík, non so, il secondo gol è stato meraviglioso, il gol di De Rossi è stato fantastico, il gol di Hernanes, ne abbiamo visti tanti, al punto che ne parlavo prima con Maurizio Crosetti scherzando, ma non molto, mi è venuto il sospetto che fosse tutto finto, tutto cartonato. Se non fosse stato per il Milan, se il Milan avesse vinto 1-0 a Verona, gol di Balotelli, magari bomba di destro all'incrocio, avrei pensato ad una regia occulta di chi vende il calcio in TV, Sky e Mediaset. Riccardo Trevisani da Sky, buongiorno Riccardo. Non credo, buongiorno a voi. Ma tutto così perfetto, ma ragazzi, gol belli, le grandi che vincono, il Napoli che stupisce, che incanta, la Juventus di Tevez, la Roma dei Romani. C'era anche questo di bello, di sorprendente, diciamo, che tra Verona, Roma, insomma, sì, c'è stata una serie di cose positive anche da quel punto di vista. Veramente sembrava un pulino bianco. L'avete fatto tutto voi? Era Cinecittà? Di la verità. Io sono da San Siro, giuro che sono da San Siro. Ero a San Siro per la prima Inter di Mazzarri, il primo Genoa di Liverani, e giuro che non era a Cinecittà. Non era Cinecittà, siamo sicuri, siamo certi, cioè non era tutto orchestrato, non c'era il Grande Fratello, me lo prometti, mi dai la tua parola. C'erano tante telecamere, ma non c'era il Grande Fratello. Vabbè, allora ci credo. Senti, il Napoli lo conosci bene, Benitez anche meglio, pensa che festa per lui, anche questo lo dicevo prima, è stato lanciato dalla finestra dall'Inter, è rientrato dal portone in Italia con il Napoli, adesso sono tutti lì a dire Rafa, bentornato grandissimo superstar, top player delle panchine, ma che bello il tuo Napoli, pensa che soddisfazione. Nella sagra delle beffe è rientrato dopo aver vinto l'Europa League, che De Laurentiis sostiene non conti nulla, e poi l'ha preso perché ha vinto l'Europa League, quindi è una storia veramente divertentissima. Però lui è una brava persona, un bravo allenatore secondo me, quindi gli auguro veramente di togliersi tutte le soddisfazioni che può e che vuole e che davvero può onestamente togliersi con una squadra dal grande potenziale. Poi siamo alla prima giornata, oggi veramente sembra tutto perfetto per il Napoli, per la Roma, per la Lazio, per l'Inter, per la Juve, disastro per il Milan. In realtà dura 38 giornate, è anche tanto bello e difficile perché dura 38 giornate nelle quali c'è la Coppa, l'alluvione, la neve, l'infortunio, la squalifica del campo, dei tifosi, degli stadi, Cagliari che non ha casa, e poi, poi vediamo anche cos'altro succede. Però il Napoli è bello come il mare di agosto, a vederlo, a riuscire ad arrivarci. Mare di fine agosto. Aveva già, scusami, la l'impronta di Mazzarri dal punto di vista della cattiveria e dell'essere squadra. Benitez l'ha abbellita con un po' di gioco, con un po' di idee offensive, con tanti giocatori, pur avendo perso Cavani, comunque è una squadra che ancora va a memoria e che ha qualità da veramente poter fare invidia a tante squadre. Sì, poi quell'incontentabile di Benitez vuole anche un altro attaccante perché è ingordo. E allora ha detto, secondo me è completamente inutile, però. Beh, anche secondo me, visti quelli che ha, poi gioca una prima punta e due a sostegno, che sono quelli che sono, mi sembra che Napoli con 6 possa anche, insomma, andare avanti così. Però voglio dire, se è lui il crociato anti Juve, accontentiamolo, perché almeno, insomma, magari ci annoiamo un po' di meno. Abbiamo un campionato. Abbiamo un campionato, sì. Senti, per l'Inter invece, per chiudere, Inter era la più misteriosa di questa prima giornata. Dicevo prima, non sai bene cosa chiedere a questa Inter, perché al di là delle magliette, dei titoli, del blasone, non è una squadra ricchissima. Nelle altre stagioni Moratti era abituato quantomeno a regalare una superstar ai tifosi. Quest'anno vuoi il cambio di proprietà in arrivo, le difficoltà economiche, eccetera, non c'è una superstar che non sia Mazzarri. Però credo che tante volte sia più importante quel tipo di superstar, cioè l'allenatore, piuttosto che qualche giocatore blasonato o comunque per forza straniero a tanti soldi, che poi non fa la differenza. Se guardiamo quello che ha fatto l'Inter ieri con Mazzarri e unendolo a quello che ha fatto col Cittadella, secondo me sono già due grandi cose. Intanto, per due volte su due l'Inter non ha preso gol, e rispetto ai 57 incassati, record negativo tra i peggiori della storia dell'Inter l'anno scorso, è già tanto. E soprattutto se consideriamo che la squadra ha un'identità, che non gioca un calcio scintillante, ma raramente le squadre di Mazzarri giocano un calcio scintillante, però è uno che con Brito, Scampagnaro e Gamberini in difesa prende pochissimi gol e arriva ad avere la seconda miglior difesa del campionato. Quindi è uno che anche con Ranocchia, Juan Jesus e Campagnaro riesce a fare lo stesso. Se l'Inter prende pochi gol, alla fine tra Guarin, Alvarez, Icardi, Belfodil, Milito quando torna, Palacio, Kovacic, ha la qualità per fare qualcosa e per riuscire a portare a casa dei risultati. Io credo che l'Inter sia un po' sottovalutata in questo mercato, in questa via di stagione, e ti dico la verità, considerata la stima che ho di Mazzarri, la convinzione che farà un buon lavoro, non saprei dirti chi tra Inter e Milan arriverà davanti, nonostante no, Milan sia più squadre. Ma poi a Mazzarri, insomma, tu hai detto prima una cosa estremamente corretta, cioè peggio dell'anno scorso non si può fare, quindi da questo punto di vista senz'altro ha meno pressione rispetto ad Allegri. Appunto, anche per questo motivo io sono convinto che non avendo le coppe, cosa che a Mazzarri scoccia abbastanza di averle più che di non averle, esatto, riesca a fare un ottimo lavoro. Poi è difficile in questo campionato molto equilibrato, perché al di là della Juve tutte le squadre più o meno si equivalgono, è difficile riuscire ad emergere, ma proprio perché c'è equilibrio, se ti vanno bene un paio di cose puoi riuscire a fare un campionato, non hai le coppe, sei una sorpresa, hai solo da guadagnare rispetto al triste passato e alle sconfitte dell'anno scorso, per cui per Mazzarri c'è tanto da guadagnare. Sarà molto più difficile secondo me l'anno successivo per Mazzarri, con le coppe, con sì, e con una squadra che avrà sicuramente delle pretese, magari con Toir che avrà comprato qualche giocatore in più. Sì, poi vedremo quali coppe. Grazie Ricky. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Trevisani. Ammazza che bella vittoria Azarenka, la sto vedendo parlare in conferenza stampa. US Open iniziati, anche questo sarà un argomento di cui parlare. Altro argomento di cui parlare nei prossimi giorni e con calma sarà Tony Cairoli. Carlo Bassano del Grappa dice: ma sempre questo schifo di calcio, ma parlate di Cairoli. Ma lo faremo certamente nei prossimi giorni e con calma, ripeto. Strade, poi torniamo agli ascoltatori, poi diamo un'occhiata anche al mondo dei motori, sentiamo qualche voce di mercato, perché c'è campionato ma c'è anche mercato. A dopo. Io adoro la tua trasmissione perché posso darti ragione. Tutti convocati. Adesso sempre così casualmente nello zapping vedo parlare Mourinho. Preferivo la Azarenka, posso dire la verità, almeno dal punto di vista estetico. Poi è chiaro che Mourinho stasera gioca, se vogliamo, la partitissima del weekend contro weekend, è lunedì, fine settimana calcistico, c'è anche la Fiorentina stasera, e il weekend è molto allungato, spalmato, come sappiamo bene, in questa epoca del pallone. 800 24 00 24, c'è un aggiornamento su Higuain. Attenzione, allora, eravamo rimasti Capri, Marina Piccola, giusto? Scoglio scivoloso, bam, va giù di faccia mettendo il piede sullo scoglio scivoloso, le due ancelle che lo sorreggono, lo viene portato in ospedale, cos'è, 8 punti alla mascella, 2 alla testa, e adesso per precauzione gli è stato applicato anche un piccolo collare. Le due ancelle sono sempre lì che aspettano l'uscita di Higuain dal pronto soccorso. Per la cronaca, per la cronaca. Francesco, Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve. Senta, volevo una sua riflessione sul passaggio di Mazzarri dal Napoli all'Inter, semplicemente perché volevo escludere l'ipotesi, che da napoletano mi farebbe male, di non volere una location come Napoli, visto che... Mazzarri? Sì, Mazzarri. Ma secondo me l'essere andato in una squadra con un progetto di 3-4 anni la dice lunga sul fatto che non sia un vincente. Poi volevo la sua opinione, perché col Napoli sicuramente poteva vincere qualcosa, è andato di nuovo a dimostrare, o meglio, a non dover dimostrare nulla. E questo è stranissimo per uno che si confronta con lo Special One, non crede? Ma questa è lettura, sì Francesco, può essere una lettura, certamente al Napoli quest'anno avrebbe paradossalmente, vista la storia, l'ultima stagione, eccetera, avuto più pressioni che di quante non ne abbia all'Inter. Allora lui non sopporta le pressioni. Ma no, però è anche vero, Francesco, che credo la storia di Mazzarri a Napoli si fosse esaurita, come quella di Cavani, come quella di Lavezzi un anno prima. Credo che fosse una storia arrivata al capolinea, ma con buona pace di entrambe le parti. Non credo, che De Laurentiis, sì. Cioè so per certo che De Laurentiis non è che abbia fatto i salti mortali per trattenerlo, insomma, di comune accordo, uno da una parte e uno dall'altra. Arriva Benitez, tutti contenti, Mazzarri all'Inter e tutti contenti. Poi sappiamo bene, ma qui basta guardare il palmarès, che Mazzarri è partito alla gavetta sempre con grandi risultati, con eccellenti idee di gioco, con questa capacità comunque di trarre il meglio dall'organico a disposizione, perché a Napoli ha spremuto sangue dalle rape, lei lo sa meglio di me. Però non deve ancora così incorniciare la sua carriera con un titolo per dirlo alla Mourinho. Esattamente, ed è questo che gli manca, sinceramente. Volevo solo un'altra sua opinione. Si è parlato molto di Balotelli, ma Balotelli, secondo il mio punto di vista, sarà l'eterno Cassano. Il problema, credo, di questi ragazzi è che qualcuno, come diceva qualcuno che è intervenuto prima di me, nessuno gli insegni ad avere una personalità oltre a giocare a calcio, perché si perdono così. Ma io non credo che Balotelli sarà un campione. Non lo so, io mi auguro di sì invece, cioè non, mi sembra una così abbastanza un luogo comune quello di dire Balotelli come Cassano. Io penso che Balotelli sia diverso rispetto a Cassano, non solo dal punto di vista calcistico. Io mi auguro invece che possa fare qualche altro passo sulla via di una difficoltosa maturazione, ma di un progresso che indubbiamente esiste, perché non dimentichiamo, ha 23 anni, ha già fatto cose importanti anche con la maglia della nazionale, più di quanto non abbia fatto Cassano in tutta la sua carriera, ed è facile ricordare lo scorso europeo. Ora gli viene chiesto di fare il capo giocatore in una grande squadra, cosa che a Cassano, compito che a Cassano nessuno si è mai sognato di affidare, e dunque mi auguro che voglio pensare che Balotelli riesca a completare la sua maturazione, perché ripeto, dal punto di vista del talento fisico e tecnico vale i primi 5 giocatori del mondo. Antonio dalla provincia di Mantova, e poi voglio sentire qualche voce del weekend. Buongiorno. Io chiamavo per riparlare di Milan. Il problema del Milan non è che non hai soldi da spendere, è che li ha spesi male. Fino all'anno scorso il primo monte ingaggi della Serie A, e quest'anno ha comunque il secondo monte ingaggi della massima serie. L'anno scorso spendevamo 70 milioni di euro all'anno in più del Napoli, quindi i soldi ci sono, ci sarebbero, ma sono spesi per... Guardi, prima Antonio, prima c'è un ascoltatore che prima ha detto: ma ci fosse stato Flamini in quel centrocampo. Flamini chiama 4 milioni di euro netti a stagione di ingaggio, sì, se non ricordo male. Abbiamo in rosa 40 giocatori e paghiamo Bonera, Antonini, Constant, Zaccardo, Silvestre... Forse si poteva pagare lo stipendio anche di quel brasilianino discreto che avevamo. Quale? Thiago Silva, ecco. Quel brasilianino discreto che... Sì, ce n'è un altro di brasilianino discreto che ne prende 4,5 con contratto rinnovato, 4,5 netti, si chiama Robinho. Quindi certamente il Milan ha ancora al collo diverse pietre di ingaggi molto pesanti e che sono a scadenza da definire, insomma. Allora, voci del weekend relative ai motori più che altro, perché come dicevo prima abbiamo visto ieri un grandissimo Alonso e un incredibile Marc Marquez. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare, il nostro obiettivo è vincere qualche gara di fila per andare ancora in lotta per il campionato, per quello dobbiamo lavorare nella stessa direzione che abbiamo fatto qui. Questo è stato il primo step, a Monza ci sarà un secondo step, a Singapore un terzo step, quindi tutti stanno lavorando 24 ore per questo obiettivo, e il primo passo penso che l'abbiamo fatto molto bene. Sì, la verità è che onestamente qua non mi aspettavo la vittoria. Jorge ha fatto il test, Yamaha qua ha sempre andato molto bene, anche Dani l'anno scorso ha vinto, così aspettava fare un po' di fatica e finire al podium, ma dai, abbiamo vinto, sono molto molto contento. C'è chi mi scrive di non sbavare per la Zarenka, ma fatevi i fatti vostri. Cioè, non posso neanche dire che la Zarenka è bellissima, ma perdonatemi. Con pardon de las damas, come disse un giorno Maradona, il resto lo tralascio. Massimo, provincia di Sondrio, buongiorno. Ah, buongiorno, sì, sono di Milano, ma sono a Livigno per lavoro. Niente, volevo una piccola premessa. Sono un ex tifoso di calcio e sono schifosamente schifato degli stipendi di questi calciatori, che molto spesso deludono incredibilmente. Sì. Tutto questo, evidentemente, era sulla Formula 1. Beh, non è che in Formula 1 prendano due noccioline, eh? Non è che Alonso prenda poco. No, in Formula 1 sono esercitati, però perlomeno sono rischiati, sono campioni, uno Schumacher, un Valentino Rossi. I motori, la gente mette in prova 300 giorni all'anno la sua vita. Questi sono calciatori che molto spesso non tengono 90 minuti. Leggevo, guarda, questo è un discorso lungo, Massimo, però leggevo di contratti di Alex Rodriguez. Lei sa chi è? No. Superstar del baseball, ora beccato pieno di steroidi per la seconda volta, ex fidanzato di Madonna. Allora, 122 milioni di dollari, aveva firmato un contratto... Un primo contratto a 122 milioni di dollari, poi l'ha migliorato quando ha cambiato franchigia passando a New York. Insomma, calciatori va bene, però non dimentichiamo il quadro complessivo. Io dico, sono tanti soldi per i calciatori, per i piloti di Formula 1, per i pittori, per gli attori, eccetera, eccetera. Discorsi lunghi, purtroppo non sentivo bene l'audio e poi vi devo salutare, ma l'appuntamento è a domani alle 2, tutti convocati. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Questo Raikkonen è un autistico, uno straordinario, vedi anche gli sport che gli fanno fare, no? È meraviglioso, che dice, c'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? Cosa fai qui? Holidays? Sei qui in vacanza? No. No. Business? Sei qui per affari? No. No. Friends? Sei qui per amore? No. No. Why are you so far away from home? Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea. No? I have no idea. Non lo so.